Ciao a tutti, buonasera o buongiorno, dipende dove siamo. Questa volta voglio parlare di trovare un modo da vivere, di trovare un modo di fare i soldi, di un modo legale, evidente. Dobbiamo mettere insieme tutte le risorse che abbiamo in soldi e quelli che puoi diventare liquidi nel corto termine. È importante investire in noi stessi di modo intelligente. E pensiamo che dobbiamo sviluppare una formatura, perché senza questa è molto più difficile guadagnare qualcosa. Ma la formatura è soltanto la base. Dobbiamo continuare mettendo insieme il conoscere, mettendo insieme abitudine, mettendo insieme sapienza, pensiero e pensieri, mettendo insieme immaginazione. E mettendo in gioco questa insieme alla formatura, insieme all'educazione, insieme alla capacità, insieme all'immaginazione, come ho detto, 10 anni prima abbiamo la internet. Ma non come l'abbiamo oggi. Agora possiamo utilizzare la internet, la rete, con un scopo di diventare soldi, di guadagnare soldi, insieme a tutto quello che ho parlato. Addirittura che possiamo trovare un lavoro con la formatura che abbiamo e con l'immaginazione, con il pensiero, con la capacità, con i pensieri, con la testa che abbiamo, con la sangue che abbiamo. Per finire, è importante che il bimbo, devi continuare con l'educazione, del primo livello all'ultimo livello, del primo livello a sviluppare la formatura. È importante, questa è la base di tutto, è la base di tutto, addirittura. E le prime 10 anni, 12 anni, e in questa età si forma tutto, si forma la base dei bambini. Ma non voglio con questo dire che dobbiamo rimanere a questa età e con questa educazione, dobbiamo finire la formatura. È tutto lo che ho parlato. Va bene? Questo è il mio consiglio. Mi ha fatto molto piacere parlare con voi. E a dopo. Buona serata, buona giornata e grazie.